140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Tutta dedicata a Sanremo, la nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Teatro Ariston, Sanremo. Divertito e divertente, intervista in viaggio con Max Gazzè, cantautore della Scuola Romana, appassionato di tennis e habitué di Sanremo. Intervista in auto verso l'Ariston con un Max Gazzè vestito da tennis, quindi allora è vero, è il festival degli artisti giovanissimi, possiamo dirlo? Beh, diciamo che quando al circolo dove vado a giocare a tennis sono il più giovane, sono tutti anziani, per cui è il mio modo per diventare anziano. Il fatto di andare a giocare a tennis. Scherzi a parte, tu cosa hai pensato quando queste buffe polemiche parlavano di artisti troppo giovani, così alle prime esperienze nei big? Giovani alle prime esperienze. Allora, non mi sembra, sono adesso che suono, che faccio il musicista, adesso ho 45 anni e ho cominciato a 12 anni a suonare. Il mio primo disco l'ho pubblicato nel 95, 90, quindi 95-94 più o meno finito, quindi sono 20 anni? 19, sì. Quasi. Diciamo, se vogliamo considerare artisti giovani dopo 20 anni di esperienza, o di insomma, sono il secondo più anziano del festival. E non c'è una soluzione se non quella di rimpicciolirmi a dismisura fino al punto di traslocare nella borsa tua con grandi simbolitura, oppure supplicare la tua ombra e cedermi la possibilità di rimanere là a disposizione, cambiando se tu cambi posizione, o essere l'involucro di ogni funambolico pensiero che ti viene quando le giornate sono piene dei tuoi maledettissimi. Prima volta però che si portano due brani e ci parli anche molto di donne, com'è questa storia? Ma no, cioè in un brano parlo di donne, parlo dei tuoi maledettissimi impegni, un brano che, dove c'è quest'uomo che cerca di trovare tutti gli escamotage, le soluzioni possibili per poter trascorrere più tempo con la sua amata, con la sua donna, ma non ci riesce, per cui trova delle soluzioni improbabili. L'altro invece, Sotto casa, è un brano che non parla di donne, ma parla di distanze che tra religioni, che credi, culti diversi, tra diversità, tra mondo laico, mondo credente, accettazione o non accettazione di biodiversità, insomma, è un brano molto più complesso. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io, sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro e ora nel cuore mette un muro. In un festival in cui alla fine è entrata in un qualche modo la religione, insomma, siamo stati tutti costretti a fare delle riflessioni sotto questo punto di vista dagli eventi. Sì, beh, senz'altro, Sotto casa è un brano che comunque denuncia alcuni aspetti, religiosi, alcune cose, attraverso chiaramente una chiave ironica. Mi piace sempre ironizzare, non scherzare, ma insomma, lanciare un messaggio attraverso anche dei contesti più passabili, no? Un momento in cui dici una cosa, se la dici con ironia, magari anche più accettazione nel percepire quella cosa senza la sua pesantezza. E in questo momento c'è la dimissione del Papa, che rende il tutto ancora più in tema. No, okay. Ultima velocissima domanda: un tempo Sanremo serviva a vendere dischi, adesso tu come lo vedi questo mondo? Speriamo che serva a vendere i dischi, insomma. No, credo che serva a tutto, serva a quello soprattutto, perché d'altronde se non vendiamo più i dischi non sappiamo più come fare musicisti. Bisogna sempre capire, se io vado a a comprare un paio di scarpe le devo comunque pagare perché costano. C'è un grande lavoro dietro ogni disco, se i dischi non si vendono più non sappiamo più come fare i prossimi dischi, quindi è importante che si riattivi un po' la coscienza e se veramente le persone ci tengono agli artisti, alla musica, seguono la musica, devono capire che è importante. O quello te lo scarichi da iTunes che te lo paghi, o vai a comprare il disco fisico, però è importante che ci sia uno scambio. Tu ascolti la musica e devi, per poterla ascoltare e gioirne sempre di più, avere la coscienza che bisogna comunque pagarla. Hotel de Paris, Sanremo. Più di 20 anni sulla scena indie, sperimentano con emozione il palcoscenico dell'Ariston. Per gli Alma Megretta, Gennaro Tesone. Questo è un palco unico, abbiamo visti tanti, ma pure di festival, diciamo, europei di una certa caratura. Però questo qui è proprio un palco che non saprei collocare, diciamo, nella realtà. È più un fatto che appartiene a un... il Peruranio, che sta da qualche parte, non so bene precisamente dove, che però ti trasmette una fortissima emozione, delle volte al limite proprio del, può essere anche paralizzante, insomma, nel senso che per esempio il fatto che quest'anno ci siano stati in una sera, ci sia stata la possibilità di suonare due pezzi per il palco di Sanremo, secondo me è una cosa molto importante, perché irrigidisce pure un po'. Non passa, diciamo, interamente nell'arco di 3 minuti. Un palco che, se non rappresenta del tutto la storia della musica leggera italiana degli ultimi 63 anni, però racconta molto della storia dell'Italia attraverso quello che è rimasto negli annali, attraverso i testi delle canzoni. Voi come leggete l'Italia attraverso questa edizione del Festival di Sanremo? Beh, io penso che la nostra lettura dell'Italia vista proprio attraverso la lente del nostro pezzo che Mamma non lo sa, che è proprio una storia dell'Italia di oggi, che è la si narra, insomma, nel testo di un uomo che cambia la sua posizione sociale in seguito al fatto che si sposta pure geograficamente, magari va dal sud di un paese economicamente arretrato in un polo industriale italiano, che presumibilmente al nord. Perché la storia di quest'uomo è di uno che va a lavorare in una fabbrica e poi, insomma, in seguito alla crisi viene licenziato. Ti può capitare che tu, venendo da una situazione diversa, appunto, di un altro tipo di cultura, hai negato questa cultura e poi ti trovi ad essere licenziato, a non avere né più il lavoro, quindi né una posizione economica nella società e né un'identità culturale. Dalla zappa alla catena non è come andare una mattina al mar oppure passeggiare. Se ti fanno mettere una bella tuta blu, quello che non sei più. Ho imparato a leggere pure a parlare, mangio scatolette e non cucino più. Festa del paese non ci vengo e tu, c'è il pallone alla TV. Mamma non lo sa, qui ci costruiranno la città. È un festival molto strano in cui ha fatto irruzione la realtà anche con delle tragedie personali, ha fatto irruzione la spiritualità, si è dimesso il Papa il giorno prima dell'inizio del festival. Voi come Alma Megretta avete poi peraltro acceso un riflettore attraverso Raiz su un'altra realtà ancora della spiritualità. È un caso o è anche un periodo in cui oltre alla ricerca delle origini c'è anche la ricerca di qualcos'altro? No, io non penso che sia un caso, diciamo che poi tra l'altro quello che la cosa più grossa è destabilizzante che capita in questi giorni sono proprio le dimissioni del pontefice, no? Cosa che non succedeva da secoli, e quindi questo dimostra come la società sia in via di grande trasformazione, e nel suo piccolo pure il festival, perché in quest'anno è sicuramente un festival diverso rispetto alle altre edizioni. Napoli è sempre stata comunque determinante a Sanremo anche nelle sue evoluzioni. Sì, in effetti è stata determinante a Sanremo perché è stata determinante sempre per la musica italiana, perché secondo me alla base della canzone italiana, melodica italiana, c'è proprio la canzone napoletana, e quindi dimostra che a livello musicale Napoli c'è ancora il suo peso, anche se poi le condizioni proprio della città diventano sempre più difficili, insomma, vivere la quotidianità a Napoli, insomma, siamo molto lontani da risolvere dei problemi che sono avvinghiati a questa città e insomma, delle volte la asfissiano proprio, alla malavita, no? la camorra. Onda che vai sospinta dal vento verso una terra sconosciuta e passi come un brivido lungo la schiena, all'estremo orizzonte tocchi il cielo. Abbiamo citato la malavita, la camorra ha inquinato gli affari, i terreni materialmente, e recentemente ci ha provato e in certo senso ci è riuscita anche con la musica. Non è solamente un fatto degli ultimi tempi, negli ultimi tempi è un fenomeno che sta più sotto riflettori e quindi ne siamo tutti più consapevoli, ma un certo tipo di musica e di attività è stata sempre diciamo appannaggio di un certo tipo di ambiente, ma come tutte le altre attività economiche, perché per esempio il pop napoletano è comunque c'ha un circuito commerciale completo, questo significa che c'è un'attività che muove molti soldi, e dove c'è un'attività in cui ci stanno molti soldi c'è sempre l'attenzione della malavita. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Ancora lo speciale Sanremo nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Hotel Londra, Sanremo. Una più sorridente, una più impegnata. Quest'anno due canzoni in gara, due mood diversi, perché la vita è così. Daniele Silvestri. Ma intanto perché credo che la vita sia fatta di entrambi gli aspetti, anzi probabilmente di molti di più di questo, ma dovendo estremizzarli un po' sono sicuramente le occasioni in cui si può anche pensare ad altro e si può usare la musica per esempio per quella che è la sua missione principale, che è distrarre nel senso più nobile del termine. Però la musica è anche un veicolo straordinario per pensieri, emozioni e speranze anche un po' più profonde, e l'occasione di farlo parlando di qualcosa che in fondo sta succedendo un po' dappertutto e poi è sempre successo, ma insomma in questo momento credo abbia un valore diverso, ossia la capacità di alcuni popoli di cercare di determinare o no il proprio destino prendendo parte attiva alla vita, diciamo, politica del proprio paese, ma insomma impegnandosi in prima persona, ma anche semplicemente scendendo in strada a far valere dei diritti. È una realtà che ovviamente riguarda il nostro presente, il nostro non solo di italiani, ma forse come minimo di europei, però riguarda anche la nostra storia. In fondo mi sembra di cantare quasi più la voce di uno zio che se ne è fatti tanti prima di cortei, di manifestazioni, più che quella di uno studente di oggi, anche se credo che coincidano in fondo i percorsi, ovviamente con energie diverse, però mi interessa un punto di vista più anziano, diciamo così, perché il valore che dentro questa canzone volevo passasse è proprio quello dell'impegno anche al di là della propria energia, della propria disillusione, cioè si può essere anche disincantati ma continuare a pensare che sia un dovere quello di scendere in strada. Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi, né armi per difendermi. Non capisco se è una canzone, però, perdonami la banalità dell'aggettivo, ottimista, o se questo spingere all'azione è semplicemente una reazione ai tempi, così un tentativo un po' disperato. Cos'è? Entrambe le cose, nel senso che credo che qualsiasi grande cambiamento passa per delle sofferenze, che sono probabilmente le sofferenze quelle che costringono anche chi prima non l'ha fatto a rendersi conto che si deve occupare del destino suo, dei propri figli, di chi ti sta accanto. Il lato negativo sta nel fatto di ritrovarsi a dover difendere anche i diritti elementari, quelli che erano, dovevano essere già acquisiti, come quello al lavoro e allo studio, tanto per dire i più banali ma anche i più importanti. Il lato ottimistico, se c'è, sta, e per me c'è, nella canzone a un certo punto si parla di sole, come se ci fosse qualcosa che illumina comunque la collettività, una collettività che si risveglia in qualche modo. La vedo come una delle cose più belle che possono succedere, e non penso per forza al lato violento di un raggruppamento di persone, anzi penso molto prima al lato mistico e quasi e gioioso che c'è nel ritrovarsi in tanti a dire le stesse cose. Sì, un festival con due brani con un mood così diverso. È strano, è un po' schizofrenico effettivamente, soprattutto accostati così uno all'altro. Però io vivo questa schizofrenia come autore, come interprete delle mie canzoni da sempre. Non ho mai avuto un modo di scrivere che fosse particolarmente uniforme, mai capito io stesso quale fosse il mio stile, se ce n'era uno o gli argomenti giusti di cui parlare. Mi piace parlare di tutto quello che mi sta a cuore, che a volte è più intimo, a volte meno, a volte è più scanzonato, a volte lo è scanzonato anche quando in realtà i temi che affronto non lo sono così tanto. In realtà la seconda canzone nasconde qualche significato recondito, ma in quel caso è molto meno esplicito che nell'altra. Svelaci qualcosa. Ma più che svelare, suggerisco di immaginare che invece di trattarsi di una storia di coppia, chi parla sia qualcun altro che probabilmente ha, più che d'amore, sta parlando di affari. Ecco, basta, questo è il massimo a cui arrivo, perché poi potrebbe essere divertente svelarlo più avanti in un altro modo. Teatro Ariston, Sanremo. Timido, stralunato, al festival è già stato vincitore, Simone Cristicchi. Mi sento un po' un outsider quest'anno, perché avevo un po' abbandonato Intanto ci sono dei cani. I cani che mi vogliono mozzicare, sì. Avevo un po' abbandonato, tralasciato un po' la musica per sposare la mia seconda grande passione, che è il teatro. Quindi il teatro mi ha portato un po' lontano dai palcoscenici, dalla televisione, dalle radio, e per questo oggi me la vivo con grande serenità, insomma, in questo festival me lo vivo con più serenità e stupore, anche perché è comunque una grande emozione sapere che in un momento ci sono 15 milioni di persone che ti stanno guardando, e in questo caso è proprio la realtà, visto che ho avuto la fortuna di avere il picco degli ascolti ieri sera. Un palco e una manifestazione che accompagna la storia dell'Italia, che ha fatto la storia dell'Italia e che ha raccontato l'Italia attraverso le canzoni. Lo hai fatto anche tu in un momento particolare, raccontando una storia molto delicata. È bello questo filo che accompagna l'Italia e gli italiani? Io credo che sì, il festival possa, e le canzoni del festival possano essere un po' un racconto dell'Italia attuale. Io ho nominato nella mia canzone dei personaggi del passato, come Pertini, come Pasolini e Charlie Chaplin, che sono un po' dei punti di riferimento culturali e politici che oggi forse vengono un po' a mancare, no? E quindi la mia è una piccola provocazione, soprattutto quella che riguarda il nonno partigiano. La prima volta che sono morto, Non me ne sono nemmeno accorto, mi ero distratto solo un secondo, l'attimo dopo ero già sepolto. La prima volta che sono morto, ho immaginato fosse uno scherzo e mi sentivo abbastanza tranquillo, ma dopo tre giorni non sono risorto. È successo così all'improvviso, lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. E poi sfidi il tabù di non affrontare mai la morte nelle canzoni. Invece tu l'hai fatto. Io sì, infatti, nonostante il titolo magari avesse gettato un po' tutti nello sconforto e nella tristezza, oddio, è una canzone che parla di morte, no? In realtà parla di una vita oltre la vita, e quindi ho immaginato questo al di là fantasioso, no? Creativo, dove si studia, dove si va per studiare sugli errori che sono stati fatti, no? E spero, insomma, che sia una canzone che dia anche una speranza a tutti quelli che magari non possono più rivedere i propri cari, no? Sperare di rincontrarli nel prossimo passo, che non chiamo morte ma altra vita. Mi manchi come manca il mare a un'isola, come ad un bottone l'asola, come un mese a un calendario e a un teatro il suo sipario. Due canzoni, due creature, è stato un meccanismo nuovo che ti è piaciuto? O insomma, sentire il momento in cui ti dicono l'uno o l'altra? Ma da una parte mi è piaciuto perché ci ha dato l'opportunità di far ascoltare due brani di questo nuovo album, album di famiglia, a cui tengo moltissimo e che è uscito proprio oggi, questo disco. E dall'altra però mi dispiace per la canzone che è stata esclusa, perché poverina, poteva andare avanti anche quella. Mi manchi è una canzone meravigliosa e comunque vabbè, la potrete trovare nell'album. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana dedicato al Festival di Sanremo. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.